Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ultima chance forse per la Juventus, Chiellini, non c'è più tempo, finiti 3 minuti di recupero, è 0-0 tra Udinese e Juve, la Juve rimane a più 7 sulla Roma, l'Udinese ferma la capolista. 800 24 00 24, Claudia Schiattone autrice di questa puntata, Paolo Corleone in regia, Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Juventus che non ha raccolto il match point gentilmente lasciato dalla Roma per strada ieri sera dalle parti dell'Olimpico. Anzi, ribaltando il ragionamento, Roma che a questo punto ha perso una grandissima occasione di avvicinare la Juventus. Ma non lo so se ha perso una grandissima occasione, a me sembra quasi il caso di parlare di una crisi della Roma, perché oggi la Juventus ha sonnecchiato a Udine. È stato sveglio nella giornata di oggi solo il Napoli, che ha vinto a Verona con il Chievo, le altre sono svenute, a cominciare dalla Roma ieri sera. Le diamo i risultati, visto che per tutto il pomeriggio gli amici da casa... Di tutte quelle che sono svenute. Non li hanno avuti. Allora, Udinese-Juventus 0-0, Chievo-Napoli 1-2, Cesar-Autorete, Pellissier-Gabbiadini, Cesena-Lazio 2-1, De Frel, autorete di Cataldi, perché oggi è stata anche la giornata delle autoreti comiche. Sì, molto comiche. Ce ne sono state tante da raccontare, poi close nel finale. Poi il 5-1 del Torino con la Sampdoria, tripletta di Quagliarelli, Mauri, Obiang e Bruno Peres, e aspettiamo Mihajlovic particolarmente carico ai microfoni di Sky. Ha fatto un mazzo così, eh? Atalanta-Cagliari 2-1, Biava De Sena e poi un gol meraviglioso di Piniglia 94esimo in rovesciata volante, 2-1 del Palermo sul Verona, Taxidis, Dybala e Belotti. A proposito di gol meravigliosi, andatevi a vedere la punizione di Dybala. A mezzogiorno e mezzo si era dissolta definitivamente l'Inter di Mancini, che è l'altro grande tema di questa domenica. Inter che ha perso 3-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Vorrei sapere che cosa ne pensate da casa. 800 24 00 24. Mi pare di capire, troppo brutta per essere vera per tutti tranne che per Mancini, che ha detto come gioco ci siamo, Carlo. Bravo, sì, l'aveva detto anche domenica scorsa contro il Torino, quando non... il portiere del Toro non ha strusciato pallone. Se è contento lui ad aver giocato una partita pessima e persa in casa con il Torino, e una partita inguardabile oggi a Reggio Emilia con il Sassuolo, Inter triturata da un'eccellente squadra. Questa partita l'ha raccontata il signore che sta entrando in questo momento e che adesso si siede, Pierluigi Pardo. Ciao Pier, arrivo da Reggio Emilia. Partita troppo brutta per tutti. No, ma te lo faccio sentire Mancini dopo la partita, eh? Sentiamo. C'è una squadra che è entrata in campo con grandi difficoltà oggi, proprio nell'approccio alla partita. No, io non sono d'accordo a questo. No. La squadra è entrata in campo bene, benissimo. Ha giocato alta, ha avuto due occasioni subito per far gol. Ha giocato la palla, alla prima occasione che abbiamo subito il gol. È chiaro che dopo l'1, il 2-0 è stato un po' più difficile e quindi abbiamo concesso un po' di più, ma nei primi 20 minuti della gara abbiamo giocato come dovevamo giocare, così come abbiamo fatto nel secondo tempo. Sulla fase di gioco ci siamo, però stiamo, purtroppo quando i risultati non vengono in Italia conta questo, i risultati, quindi speriamo che vengano in fretta. Io non so cosa ne pensate voi, ciao Pier. Ciao. 800 24 00 24, come gioco ci siamo benissimo. Questa secondo me conta solo i risultati, gli altri posti no. È la copertina invece di Mancini, poi parliamo della Juve. Sì, no, innanzitutto siete d'accordo, ovviamente non è un giorno facile per nessuno di noi di Radio 24, perché c'è stata la scomparsa di Fabrizio Guidi, che chi lavorava qui dentro e anch'io che sono arrivato da poco abbiamo avuto modo di conoscere, che fra l'altro era un grande tifoso interista, insomma, mescolando piani completamente diversi, quindi credo che ci sia un abbraccio doveroso. Certamente. Perché veramente la tragedia è enorme. Detto questo, cercando di tornare sull'attualità, l'Inter di oggi a me non è piaciuta, e sentire queste dichiarazioni di Mancini a fine partita mi fa un po'... non lo so, mi mette qualche dubbio, nel senso che comunque i tifosi dell'Inter da Mancini si aspettano ovviamente un progetto, perché è un grande allenatore, perché può portare entusiasmo, credo si aspettino anche un po' la chiarezza, ecco. Ma come fa a dire dopo il Torino e dopo questa partita non abbiamo giocato bene, ma in Italia conta solo il risultato, perché invece quando allenava al Manchester City Mazzarri, uno dei capi di imputazione di Mazzarri era che adducesse delle scuse delle volte abbastanza clamorose, sì. Ecco. Insomma, io credo che l'onestà mai come in questo momento, mai come da uno come Mancini, che comunque, ripeto, è un grande allenatore, è un totem per i tifosi soprattutto dell'Inter, ma non soltanto per loro, insomma, servirebbe onestà. Poi, se per carità, se lui l'ha vista bene nei primi 20 minuti Però sì, per i 20 minuti c'è stata la palla gol di Vidic. Però intanto la classifica è impietosa, quei 26 punti sono destinati a rimanere tali. Abbiamo tempo fino alle 19 per parlare dell'Inter, quindi io invito gli amici da casa 800 24 00 24, poi avremo un altro grande interista che immagino deluso. Oggi intanto c'è il signore che intesta la classifica, Massimiliano Allegri, microfoni di Sky, reduce dallo 0-0 di Udine. Dell'orario, cosa non le è piaciuto oggi, soprattutto visto nel primo tempo, chiedeva alla squadra un ritmo diverso, di allargare un po' più il gioco, avete subito spesso per vie centrali, cosa non le è piaciuto? Nel primo tempo abbiamo giocato male tecnicamente fino al 35esimo del primo tempo, continuavamo a buttare via questa palla, aver fretta nell'andare a fare azione al gol, andavamo in troppi sopra la linea di palla e loro facevano un muro al limite dell'area e poi ci ripartivano, abbiamo rischiato 2 o 3 volte, il primo tempo era più facile subire gol che farlo, il secondo tempo già alla fine del primo tempo abbiamo cominciato un pochino a palleggiare un pochino di più e portavamo con più uomini la palla vicina all'area e soprattutto non concedevamo ripartenze perché eravamo vicino alla palla. Questo l'abbiamo fatto nel secondo tempo, anche se in varie circostanze abbiamo un po' rischiato. Non era semplice perché poi l'Udinese è una squadra che aggredisce molto, oggi ha fatto una grande partita di grande intensità, noi abbiamo sbagliato molto a livello tecnico, anche se abbiamo avuto 2 o 3 situazioni nel secondo tempo dove potevamo far gol, però credo che alla fine il risultato è giusto. Oggi è stata una di quelle partite che abbiamo rischiato anche di perdere. Ecco, sì, non c'è dubbio che il risultato sia giusto. Questo era Massimiliano Allegri, forse una delle Juventus meno belle di questa stagione. Forse meno feroci, no? E magari in questo inconsciamente può aver anche inciso il pareggio della Roma di ieri. Non so, magari no. Ma il domandone è: ma ce l'abbiamo ancora un campionato? Numeri alla mano ce l'abbiamo. In realtà questa giornata è perfetta dal punto di vista, cioè questa domenica, nel senso che da un lato, insomma, la Roma può crederci ancora a meno 7, non a meno 9, dall'altra il Napoli può crederci molto perché adesso è a meno 4 dalla Roma, quindi dal punto di vista degli equilibri questa è stata una domenica sicuramente molto incoraggiante. La Roma, poi se volete ne parliamo, insomma, sì, se prendiamo i numeri ci può credere. La fotografia, l'immagine lasciata ieri sera, che è poi l'immagine di questo inizio di 2015, ma anche un gioco completamente perso insieme alla condizione fisica, perché sì, la Roma mi sembra tornare, una squadra che sta facendo fatica. Ci sono delle fasi cicliche, quindi insomma ci può anche stare. Quello che secondo me è preoccupante alla Roma da un lato è che ci sono questi infortuni pesanti, cioè Strootman comunque un'assenza pesantissima, De Rossi comunque sarà fuori almeno 20 giorni, ieri si è fatto male i Turbe, insomma sono tutti problemi. Dall'altra anche sul mercato, francamente, insomma, io non so se Dumbia sarà meglio di destro, ho qualche dubbio. Il Barbo è un buon esterno che a questo punto, dopo l'infortunio di Turbe, è addirittura eccezionale, però mi sembra che la Roma non abbia risolto in questo mercato i nodi che doveva risolvere. Per me il nodo è un grande attaccante. Sì, mi sembra che la Roma abbia forse perso un'occasione su questo mercato, perché molti di questi problemi erano già evidenti il 2 gennaio. Siamo arrivati al 1 febbraio, domani il mercato chiude, credo che ci sia stata una scelta societaria di non intervenire, forse si è persa un'occasione o forse ma no. La Roma è intervenuta perché alla fine Dumbia è stato preso, vedremo che saprà dare, poi magari Dumbia fa il fenomeno, io per carità può succedere, però non lo so, mi aspettavo cose diverse. O forse alla fine, se ribaltassimo l'ordine temporale delle cose, sarà un'occasione persa, così andrà classificata anche questa domenica, certo, in cui la Juventus ha pareggiato e la Roma non è stata capace di battere in casa l'Empoli. Convocati 800 24 00 24, c'è ancora Allegri? Sentiamo ancora Allegri, microfoni di Sky. Valuterà la società e soprattutto le condizioni per portare uno dei due a Torino, ecco, quindi domani credo che sia l'ultimo giorno di mercato, così almeno finisce. Fortuna per te. Sì, fa finta Allegri di non sapere che è l'ultimo giorno di mercato. Osvaldo Matri, Preziosi ha rovinato i palinsesti di mezza Italia annunciando il triangolo Matri che va alla Juve. dirti, a me sembra una Juve quest'anno che si sta gestendo meglio, cioè mi sembra una Juve in generale più rilassata rispetto al passato, una Juve che riesce anche a respirare. Per questo ho la sensazione che magari questo pareggio di oggi in qualche modo è frutto di quello della Roma di ieri. Mi sembra una squadra che rispetto all'ossessione di Conte per i numeri, per i record, sotto controllo, bellissima ossessione, sotto per carità, per i tifosi bianconeri, stia gestendo la situazione con un pochino più di serenità, almeno questa è la mia percezione. Secondo voi è sereno quest'uomo qui che vi facciamo sentire dai microfoni di Rai 2? Non c'è altro che dire che fare complimenti a Ventura, a Torino per come hanno giocato, per come hanno vinto, ci hanno asfaltato sotto tutti i punti di vista, gli facciamo complimenti, ma come dice il povero Bosco, meglio perdere una partita 5-1 che 5 partite 1-0. Mialovic senza peli sulla lingua, Enrico, te? Assolutamente sì, premesso che non vorrei essere a Bogliasco alla ripresa degli allenamenti al posto di uno dei giocatori della Sampdoria, però Mialovic senza peli sulla lingua gli fa onore questa ammissione, diciamo così, di una colpa per quello che riguarda la sua squadra. Però una cosa la voglio chiedere a Sinisa: tu hai detto prima, per fortuna questa diciamo rottura di scatole, io insomma edulcoro un po' il concetto del mercato, domani finisce, ma il mercato ha inciso su quello che è stato, diciamo così, un rendimento oggi davvero non da Sampdoria per quello che abbiamo visto in tutto il campionato fino adesso? Diamo la risposta sul mercato di Mihajlovic, non ha detto rottura di scatola, parlando del mercato di gennaio. Sì, non lo so se è questo, sicuramente il mercato di gennaio è un mercato che comunque distrae un po', noi la prima partita con la Lazio dopo la sosta abbiamo fatto male, ho detto che può essere un episodio e che una volta può succedere, che due sono troppe, oggi è successo un'altra volta, perciò sicuramente facciamo provvedimenti per fare le cose come si deve, come siamo abituati. Perciò domani scorrerà sangue a Bogliasco. Beh sì, tra l'altro c'è Ferrero teoricamente a Tiki Taka domani sera, siamo di Francesco. Beh no, penso di sì, insomma non credo che il presidente, anzi magari avrà ancora più voglia di intervenire, però sì. Però cioè, la settimana in cui prendi e tu fai questa figura No, ma questo ci sta. Il problema è che se tu prendi e tu e Muriel, uno fuori condizione, l'altro infortunato, e gli smonti il gioiellino, mi pare che l'arrabbiatura di Mihajlovic sia assolutamente legittima. Se posso dire, sa che Biadini oggi insomma si è visto, non no? Ecco. Non che cosa ha fatto? Ma insomma, che Biadini certamente lo sappiamo, è una cosa metabolizzata da tempo e che comunque alla fine è stata fatta per monetizzare. No, ma io credo che Ferrero abbia fatto bene. Cioè, il mercato non è che fino a ieri potevamo dire che grande colpo Eto'o, e adesso improvvisamente è colpa di Eto'o che è entrato tra l'altro nel finale. Però sicuramente insomma che ci sia stata un po' di destabilizzazione. Su questo non ci sono dubbi. Sì, dietro a Juventus e Roma, classifica Juventus 50, Roma 43, Napoli 39, poi il gigantesco Ciapanò, perché la Lazio è stata battuta a Cesena male, la Sampdoria abbiamo sentito è stata travolta a Torino, la Fiorentina che ieri ha fatto un pareggino faticando a Genova, c'è l'impressione che se si è riaperto in qualche modo la corsa magari per il secondo posto, si sia un po' chiusa, si stia delineando quella per quella terza posizione. Guarda, secondo me l'unica squadra a parte le prime tre che ha avuto dei livelli tali da poter riaprire il discorso Champions League, per me era Lazio. Oggi è chiaro che è un passaggio a vuoto pesantissimo, che la spinge a meno 5 dal Napoli, però sono da dire che la Lazio delle ultime giornate mi era sembrata una squadra capace di poterci anche credere, ovviamente in caso di flessione di Roma e Napoli. Se la Lazio comincia a bucare, direi che possiamo tranquillamente dire che Juve, Roma e Napoli, vediamo poi con quale ordine l'anno prossimo faranno la Champions League, e dietro c'è un mischione enorme che sì, potrebbe autorizzare ancora qualche speranza milanese, anche se poi insomma però noti come a turno bucano, forano tutte, ma sì, perché sono quelle, anche Napoli abbiamo già detto almeno 3-4 volte, ha messo le mani sul terzo posto, ha preso l'abbrivio giusto, come abbiamo cominciato a pensarlo è già successo almeno un paio di volte, il Napoli ha avuto dei risultati strani, delle flessioni eccetera, oggi tocca alla Lazio che tutti stavamo a dire è la squadra più quadrata, solida, equilibrata. Oggi ha perso Cesena, una partita che non puoi perdere, E poi vabbè, mettici la Sampdoria con magari minori ambizioni, però nessuna riesce a prendere il passo giusto. Aspetta che vi faccio sentire Gabbiadini, microfoni di Sky, uno dei protagonisti di questa domenica. Fondamentale per i tre punti, perché siamo lì. Siete lì, cosa vuoi dire? Siete lì per il secondo posto, perché la Roma pareggia, ha già pareggiato anche la Juventus, dietro perdono, quindi aumenta il distacco per il terzo posto e diminuisce quello per il secondo. Ma noi guardiamo quello che facciamo noi, a fine campionato tiriamo le somme. Diventa un vostro obiettivo comunque il secondo posto? Ma il nostro obiettivo è vincerle tutte, poi a fine campionato vedremo. Questo vabbè, è il l'obiettivo miglior... di Gabriele è vincerle tutte, no, perché ieri sera sapevo mai con la fine partita che diceva il nostro obiettivo, noi guardiamo a noi stessi, e insomma, quante volte in un campionato viene pronunciata la frase noi guardiamo a noi stessi? Ci aspettano 17 finali, sì, che poi sì, diventano 16, 15. Ringraziamo questo pubblico meraviglioso, rispettiamo sì. Tutti e non temiamo nessuno, è un classico. Hai visto la scena di Icardi e Icardi guarì negli altri? Vista. A proposito di ringraziamo il pubblico, poi tra qualche minuto ne parliamo della crisi dell'Inter. 800 24 00 24, Alessandro da Milano. Alessandro da Sesto San Giovanni, buonasera. Prego. Ecco, precisiamo, precisiamo. C'è un orgoglio sesto San Giovannese, sì. Allora, volevo farvi complimenti a tutte e tre e sono d'accordo con quello che stava dicendo prima Carlo, nel senso che è una Juventus molto diversa da quella dell'anno scorso e mi sembra che il mister stia gestendo bene le forze in vista del doppio impegno che ormai è imminente tra tre settimane, perché ci aspetta una partita molto importante, soprattutto la prima in casa contro il Dortmund. E poi sinceramente vedendo la partita di ieri sera non so come finisce se non viene espulso ingiustamente Saponara, io fossi nella squadra che c'è al secondo posto mi preoccuperei di mantenere quella posizione piuttosto che guardare in alto, visto che comunque è più vicino il Napoli, sì, sì, alla questo, Roma. Questo senz'altro. Juve. In questo momento senz'altro, poi chiaramente ci sono delle fasi appunto del campionato. Il fatto che la Roma da un mese stia giocando così non vuol dire che giocherà così fino a maggio. Ci sono delle fasi cicliche di rendimento. Però siccome domani si chiude il mercato e quindi siamo a poche ore di poter fare una valutazione definitiva su quello che ci sarà, sulle rose che ci saranno con gli infortuni, insomma la Roma secondo me sta perdendo giocatori importanti e secondo me non ha risolto completamente alcune domande, quindi posso aggiungere un'altra cosa? Sì, sì, certo. Prego. E poi volevo dire un'altra cosa su quello che stava dicendo adesso Pierluigi. La Roma ha una rosa purtroppo diversa dall'anno scorso, anche perché ci sono i Castan che non ci sono più purtroppo, perché ci auguriamo che rientri presto soprattutto per la sua salute. Benatia non lo sostituisce così. Invece io sono tifoso juventino, vedo un Llorente in una fase di involuzione, sì, molto pericolosa. Sta mancando tantissimo, sì. Llorente, sì. Sta mancando sono nei suoi gol. Di un attaccante, secondo me sta mancando più nei suoi gol che altro, perché poi credo che il modo in cui gioca Llorente vada valutato anche col rendimento di chi gli gioca a fianco. Tevez sta facendo la miglior stagione, sì. E quindi qualcosa vorrà pur dire. Però l'anno scorso a questo punto Llorente aveva cominciato a segnare alla fine 16 gol, sì, in campionato, sì, Llorente sicuramente tutti e 16 decisivi, meno bene, non un scorso. Giocatore banale Llorente, meno bene l'anno scorso, secondo me in alcune partite ha ancora una funzione tattica importante, nel senso che comunque è un giocatore che poi spesso contribuisce a far esaltare Tevez. Credo che insomma lì ci sia un ballottaggio che dura da inizio stagione. A tutti o a quasi tutti piace più Morata di Llorente, nel senso che sicuramente ha avuto dei colpi più brillanti, poi è giovane, poi c'è chiaramente la sensazione che possa ulteriormente crescere, però insomma non metterei la croce addosso a Llorente, anche se sicuramente insomma non è in una fase brillante, su questo non ci sono dubbi. Ma ripeto, la Juve si sta gestendo, a me sembra il pareggio di oggi mi sembra un io credo sia figlio di quello di ieri sera della Roma, cioè insomma, non lo so, però è anche un campo difficile Udine, cioè, è chiaro che sì, dopo due settimane in cui la Juve aveva avuto un calendario facile con le due partite in casa con Verona e Chievo e la Roma due trasferte insidiose, adesso la Roma aveva la possibilità questa settimana di recuperare e ha bucato lei, insomma, però oggi era la situazione inversa. Ma se non è una squadra talmente solida che se non le metti pressione addosso, sai, in effetti può andare a Udine e guardare il cronometro e dice ok, non lo prendo gol, poi ha avuto anche le palle per vincere, perché Tevez ha avuto la sinistra, una palla c'è gol, stata la traversa. Però mi sembra che la grande differenza tra la Roma di, tra la Juventus di Conte e questa di Allegri è che la Juventus di Conte ad aprile, ancora col tavoletto degli acceleratori giù a cercare i 100 punti, questa il primo febbraio ha cominciato a gestire. Poi vedremo a fine stagione, tireremo il bilancio su quale sarà stata meglio. C'è un amico che scrive al 349-238-6666, Daniele, se fossi nella Roma punterei solo sulle coppe. Beh, attenzione però, perché poi rischi di arrivare terzo. Anzi, ma no, ma poi, ma attenzione, perché adesso, cioè, io capisco che siamo tutti c'è un clima di depressione. Ma no, ma sì, ma non solo c'è un clima di depressione a Roma, voglio dire, il Napoli due settimane fa, tre settimane fa, allora non poteva sognare il secondo posto, adesso giustamente torna a sognarlo. Io non credo che sia finito il campionato, lo dico, non credo sia finito il campionato, credo che i segnali che sono arrivati ad oggi sono segnali che vanno nella direzione di una squadra che comunque era più forte che la Juve, e di una Roma che per il futuro con questi infortuni rischia, perché Strootman doveva essere il grande acquisto della seconda parte della stagione e purtroppo per la Roma si è infortunato, perché i Turbe, adesso bisogna capire meglio l'entità dell'infortunio, sembrava stava sì, cominciando da un mese in su, ecco, stava cominciando a fare qualcosa, insomma, quindi che Roma sarà il problema è che la Roma non può più pensare solo a se stessa, cioè deve dietro. No, ma deve pensare, cioè può rimontare solo in caso di crisi della Juventus, perché 7 punti, certo, vuol dire che la Juventus deve. Comunque, deve io dico, forare, dico anche una cosa: è giusto che la Roma pensi alle coppe. Questo cioè, a parte che le coppe arrivano il 19 febbraio, quindi esattamente facciamo il discorso un mesetto fa sul Torino, no? Che era in una situazione ancora di bassa classifica. E mi ricordo che dicevamo: il Torino avrà 2 mesi di tempo per sistemare la classifica e potersi presentare all'Europa League, che sarà l'obiettivo della stagione. E oggi la classifica già gli dà molta più serenità da questo punto di vista. Io credo che la Roma col Feyenoord debba giocarsela, non c'è dubbio. Se fosse giovedì prossimo la partita, non ti dico che sarebbe l'obiettivo numero uno, ma insomma, anche perché la differenza fra il secondo e il terzo posto è una differenza importante, per carità, però mediamente il preliminare lo si può superare, cioè sì, non è che tutti gli anni anche se 4 volte negli ultimi 5 anni le italiane sul preliminare si sono stampate. Dovremmo cominciare a considerare il preliminare come un ostacolo vero. 8-0-0 che la Roma 0-0 non ha più un grande ranking, quindi rischia di non essere testa di serie. Vabbè, insomma, poi c'è Paolo da Firenze che dice, la butta lì, siate sinceri, sì, dite che la Roma la stanno tenendo in piedi gli arbitri, torniamo subito. E adesso il salice piangente che risponde al nome di Rudy Garcia, personaggio da Suburra, che io aborro, cosa mi dice di quel simpatico cazzotto nel costato che l'altrettanto simpatico Piani ci ha rifilato con una sorta di ribellismo radicale al povero Mario Rui? Grottesco, tutto ciò è assolutamente grottesco. Tutti convocati. Un'altra cosa, faccio una battuta al riguardo. Mia mamma, che c'ha una certa età, prima della partita mi ha detto, ero così in trance che mi ha detto, Andrea, copriti bene, che ho detto, guarda mamma, giochiamo con 3 punte, e lei parlava del giubbone invece. Queste stramaccioni, grande strama, grandissimo, grande, eccezionale, Tra l'altro prima abbiamo visto passare anche il presidente Pozzo, soddisfatto, per una volta non si è presentato ai microfoni per lamentarsi dell'arbitraggio, però ha detto, avessimo quei 3 punti là, che credo si riferisse a quei punti là, quelli con la Roma. C'è ancora con Valeri. C'era ancora con Valeri. Potremmo fare anche ragionamenti diversi. Oggi l'Udinese 28 punti, 26 punti, è lì insieme alle altre, ma abbastanza lontana dalla zona europea. 8-0-0-24-0-0-24, la stanno tenendo sugli arbitri la Roma, così rispondiamo a Daniele da Padova. No, ma no, io ribadisco che non, così come non ho pensato al complotto nelle occasioni in cui la Roma è stata svantaggiata, ce ne sono in questa stagione, non ho pensato al complotto dopo Udine, tanto per capirci, quando invece sicuramente ci stava un calcio di rigore per l'Udinese nel finale, non lo so, io non faccio fatica, ve l'ho detto mille volte, faccio fatica a vedere la premeditazione. Il Napoli si è lamentato dopo Napoli-Juve, poi Napoli-Genoa e Napoli-Udinese di Coppa Italia, ha avuto dei favori, cioè, anche la Roma non è andata malissimo ultimamente, mettendo tutto insieme, ma appunto, ma insomma, non, cioè, non mi sembra di vedere tanti errori, questo sì, mi sembra di vedere tanti errori, ma insomma non mi pare di vedere il complotto, anche perché anche nella partita di ieri, tanto per capirci, fra Roma ed Empoli ci sono stati episodi da una parte e dall'altra, cioè se l'arbitro voleva incanalarla da una parte o dall'altra l'avrebbe pilotata. Io poi vabbè, forse sono ingenuo, insomma la verità è che insomma mi sembra che questa squadra abbia dei problemi, che soprattutto in un momento in cui non riesce a imporre fluidamente il proprio gioco, come succedeva invece l'anno scorso e qualche mese fa, la mancanza di un attaccante di grande livello capace di risolvere delle situazioni sia decisiva. E questo mi sembra, questo a me sembra piacciono gli attaccanti un dato di fatto. Poi, ma questa domanda la lasciamo per dopo, qualcuno mi spiegherà perché Destro non poteva andare al Milan domani mattina, o anche oggi, volendo, sì, ma tenendoselo lì. Torniamo però sull'Inter. Due partite in questo modo, dove fai perdi 4-1 e 3-0, converrebbe stare zitti per dire colpa nostra. Io lavorerò, spero, nel modo migliore sulle teste. Quella bordata di fischi del primo tempo, io non l'ho sentita. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi erano prevedibili che un po' calassero. Dopo due vittorie e un pareggio col Napoli, che abbiamo visto squadre, si parla in questi termini, a me non me ne frega niente. In area per Zaza, che cerca di girarsi col mancino, la mette sotto la traversa, destro sotto la traversa, il gol del 2-0, niente da fare per Handanovic, diciamo che è Sansone. Tocca Zaza finisce a terra con Bocco, calcio di rigore, fischia l'arbitro, parte per arbitro il sinistro, rete, e 3-1 il Sassuolo, parte l'Inter. C'è una squadra che è entrata in campo con grandi difficoltà oggi. No, io non sono d'accordo a questo. No. La squadra è entrata in campo bene, benissimo. Mi spiace molto per i giocatori, perché non meritano, soprattutto le ultime due partite, non meritavano di perdere. Ci va tutto storto e chiaramente i giocatori per questo sono un po' giù di morale. Sulla fase di gioco ci siamo, però stiamo, purtroppo quando i risultati non vengono in Italia conta questo, i risultati, quindi speriamo che vengano in fretta. Siamo da un punto di vista generale in emergenza più di prima. All'urlo richiamiamo Mazzarri. Sì, magari ha ragione lui, lo chiediamo a Enrico Ruggeri, nostro collega da domani. Ciao Enrico, ciao Enrico. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene, insomma, compatibilmente con le disavventure nell'azzurro, bene, carico per domani, per il debutto. Sì, domani Gabbiano, insomma, sì, 15:30, storie di chi è riuscito, di chi ci ha tentato, di chi ha fallito, di chi magari ci riuscirà, di chi magari come Mancini è lì, un po' in mezzo al guado, però ha detto tutto bene, gioco benissimo, si tratta di, non so, si tratta di cosa? Richiamiamo Mazzarri. Direi di no. No. Intanto il periodo non è fortunatissimo. Il calcio è fatto anche di episodi, gli episodi sono fatti di concentrazione, per cui lì il ragazzino Don Cor sbaglia un gol, qualche minuto dopo Zaza fa un gol di quelli che insomma gli auguro di fare per tutta la vita, però sono quei gol che si fanno una volta ogni 3-4 anni, non parliamo poi di quello di Sansone. L'Inter in questo momento si sta costruendo, secondo me non è fisicamente ancora all'altezza di una squadra di vertice, e mancano gli episodi, mancano i gol, manca qualcuno che salti l'uomo e quindi che crei qualche superiorità numerica, che crei qualche situazione. Cioè, le partite dell'Inter sono sempre un'eterna partita a scacchi con la palla che gira attorno, perché nessuno si prende la responsabilità, sì, di infilarsi dentro, insomma, di fare la giocata da campione. Quello che fa impazzire degli interisti è che odiavano talmente tanto Mazzarri da farsi piacere anche questo Mancini. Dai, ma io trovo un Inter talmente a metà del guado da, insomma, da rischiare di essere sommerso. Signori, i numeri sono questi: 11 partite Mazzarri, 4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte. 10 partite Mancini, 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. E io Mancini io non gli frega niente a nessuno, ho ritirato la maglia del fantacalcio di Mancini, cioè per me il mio mito calcistico, il giocatore che ho amato di più in Italia è Mancini, ed è chiaramente un allenatore di altissimo profilo, però è evidente che il problema non fosse Mazzarri, perché se no significa, secondo me, non voler guardare la realtà, guardare in faccia la verità, come dice quel tuo collega, come si chiama? Siamo d'accordo, Vasco. No, ma siamo d'accordo, insomma, oltretutto ma su Mancini pesa anche il fatto che avrebbe un'idea di calcio che, per la quale non ha gli uomini adatti, insomma Mancini ha bisogno di qualche esterno che salti l'uomo, che va, Shaqiri in questo momento è ancora corto di preparazione, non giocava titolare nella sua squadra, come neanche Podolski, tendono tutti a centrarsi, per cui il problema è chiaro che è vario, è tattico, è di uomini, eccetera. E la differenza tra Mancini e Mazzarri è solo come dire, comportamentale, di atteggiamento. Ecco, io credo, con tutto il rispetto per il mister precedente, che di Mazzarri non piacesse l'atteggiamento anche fuori dal campo, l'atteggiamento in sala stampa. Il matrimonio fallito tra Mazzarri e l'Inter è più fatto di frasi non dette o frasi dette, di parole, di atteggiamenti, che non di calcio. Sì, sì, di amore non sbocciato fuori dal campo. Sì. Su questo non ci sono dubbi. Se posso dire una cosa, io oggi, seguendo un po' i social, non è che quel col gioco andiamo benissimo, siamo a posto, sia stato particolarmente apprezzato dai tifosi dell'Inter, a proposito di atteggiamenti poi in sala stampa. Oggi Mancini ha anche un credito che è giusto che abbia, perché con Mancini si è anche vinto qualcosa, insomma si è giocato bene prima, quando non si vinceva, diciamo negli anni prima, immediatamente pre Calciopoli già si vedeva una bella Inter, e negli anni post Calciopoli si è vinto ancora, poi è arrivato Mourinho, quindi insomma è arrivato quello che ci ha fatto vincere tutto, dopodiché c'è stata una vedovanza, una lunga vedovanza tra Benitez, Gasperini, eccetera. Secondo me l'unico allenatore post Mancini che meritava una chance in più era Stramaccioni, che ha giocato un campionato con il buon Rocchi centravanti e con Palacio, Milito e Cassano in infermeria. Sì. Adesso insomma l'Inter è assolutamente in costruzione, con tutti i problemi che hanno in costruzione le squadre che non hanno un bilancio floridissimo e non hanno troppo danaro, perché non mi sembra che Toir sia il nuovo Abramovic. No, ammesso che vogliamo dire che Toir sia il problema di questa Inter, però adesso c'è il traffico. No, non è il problema, ovviamente non è il problema. È un tassello di tutto questo quadro. Dico che non ci si poteva aspettare che arrivasse Toir con in dote, che so, Robben, Ribéry e Cristiano Ronaldo. Insomma, che hanno provato con Cerci, no? Il Robben italiano. Che non è esattamente Robben. Shaqiri è un bel colpo. Sì, certamente. Poi lo misureremo. C'è il traffico, vi devo chiedere un minuto, perché sennò mi tagliano. C'è il traffico. No, poi vi chiedo anche cosa ne pensate di quella scenetta che c'è stata a fine partita, Icardi, Guarin con i tifosi. E anche la sostituzione. A proposito, diciamo, di questo scollamento, di questa luna di miele, che adesso insomma è alla prova dei fatti. Tutti convocati. 800 24 00 24. Scrivono tanti sms al 349 238 6666. Dopo Mazzarri l'Inter è ripartita da zero dal punto di vista del gioco, ma io non lo so, a me è sembrato quello di Mazzarri, però io lo dico da novembre, un esonero inidotto dalla situazione ambientale. Non me la sento di dire che Mazzarri abbia fatto delle cose migliori di Mancini. Sì, certo, non Mancini, però insomma i numeri sono dalla parte di Mazzarri. Mazzari era partito piuttosto bene, poi si era incupito. La differenza è quella, dice Enrico. Però il Puebla dalla parte senti anche Enrico. Sì, ma senti anche Enrico, cioè i tifosi dell'Inter ha usato la parola chiave che è credito. Sono disposti a perdonare Mancini e a perdonare però queste partite. Però appunto per questo, se mi posso permettere un piccolo consiglio di comunicazione a Mancini, proprio perché Mancini ha il credito anche di poter dire: ragazzi, abbiamo fatto schifo, abbiamo giocato male. Certo. Non è questa l'Inter che ho in testa, lo dicesse, perché forse oggi voleva difendere la squadra. Le dichiarazioni di oggi, che infatti non a caso mi sembra non siano piaciute ai tifosi, non lo so, non mi convincono, cioè, anche Mancini, dopo il Torino, aspetti... anche dopo il Torino dimmi la verità, aveva detto le stesse cose. Mi dite, Enrico, a partire da te, cosa avete pensato di quella scenetta che descrivo rapidamente. Fine partita, alcuni giocatori dell'Inter vanno sotto la curva, erano tanti i tifosi dell'Inter Reggio Emilia, lanciano maglie e calzoncini che gli vengono rigettati indietro insieme ad insulti e gestacci. Sono in due, Guarini e Icardi, che se la prendono Icardi in maniera particolare, apostrofa anche, adesso siamo in fascia protetta, quindi evitiamo, insomma, apostrofa i tifosi dell'Inter, mezzo parapiglia, poi una mezz'oretta dopo Icardi esce, va lì, si scusa, prova a spiegarsi. Enrico. Allora, io credo, insomma, a me piace un altro calcio, io ogni tanto vado in Inghilterra e vedo squadre che escono perdendo, applaudite dai loro tifosi perché si presuppone che abbiano dato tutto. Io fischierei solo il giocatore che rema contro e contesterei solo il giocatore che rema contro, perché voglio sperare, voglio pensare che i primi a dolersi della situazione siano quelli che stanno in campo. Quando Mancini dice che stiamo giocando bene, è chiaro che, insomma, quando perdi 3-1 a Sassuolo è una frase delicata. Io ho visto un Inter discreta fino ai 20 metri fatidici, cioè fino al momento in cui bisogna entrare in area, e lì bisogna saltare l'uomo, bisogna creare una situazione. Io in quest'ottica un Cassano che arriva a sparigliare il mazzo non l'avrei visto malissimo, anche sì, se, cioè, è quella la risposta, è quello l'antidoto che arriva, questo, c'è tempo fino, diciamo, a domani in questo, esatto, no, per Cassano, questo per Cassano uno, c'è tempo fino al 27 febbraio, quindi in realtà c'è anche più tempo. Uno che spariglia il mazzo, cioè che quando arriva al limite dell'area fa la cosa che non ti aspetti tu, ma soprattutto che non si aspetta la difesa avversaria. Se poi posso chiudere in prospettiva, io dico che la brutta notizia per l'Inter di questi giorni non è il 3-1 del Sassuolo, è il fatto che il Milan sia molto avanti sulla realizzazione del suo stadio nuovo e all'Inter non se ne parli, perché se vogliamo vedere lo stadio nuovo, l'Inter non lo fa, esatto, è certificato dal fatto che lo fa il Milan. Quello che succederà nei prossimi 10 anni nel calcio italiano dipenderà molto da quel tipo di organizzazione, quindi ahimè prevedo nei prossimi 10 anni molto bianco-nero ancora. Scusate. Perché avere il proprio stadio, avere un gettito, un introito assolutamente superiore a quelli che allo stadio lo affittano da qualcun altro, continuerà a creare un gap per il quale può essere che la Juve ancora 3-4 anni sia all'altezza delle grandi squadre europee. Sì, se avete due lire ancora, magari scommettetele sulla Juve medio termine. Non c'è dubbio. Per gli interisti sì, però questa è la verità. C'è anche un tema di formazione oggi, tornando su temi più prosaici. Insomma, a me sembra che Icardi, comunque, con tutti i suoi difetti, e poi si può discutere ovviamente sulla reazione che ha avuto, sicuramente sta passando per essere il problema dell'Inter. Però Icardi, insomma, Icardi, come si fa a giocare senza Icardi? Io non lo so. Poi, ha scritto un amico. Stiamo parlando di giocatori che vanno a scusarsi con i tifosi e, come dire, noi abbiamo fatto quello che possiamo, vi diamo la maglia. E questi gliela ributtano indietro. Insomma, poi in realtà non sono i tifosi, sono una curva, insomma, poi lì si può evitare di dirgli i pezzi di questo, può essere utile. Comunque no, io voglio dire, può star fuori dal campo Icardi, io non lo so, 16 gol stagionali, a me sembra che oggi nel secondo tempo le cose migliori l'Inter l'abbia fatte quando è entrato lui. Io ve lo dico, secondo me si sta preparando quello che accadrà a giugno, cioè c'è questo lento addio dell'Inter a Icardi e viceversa. Poi c'è un amico che scrive: guardate che l'Inter è sperimentale, nelle ultime 3 partite ci sono stati 6 tempi diversi con 6 moduli diversi. diversi. C'era anche l'emergenza dietro. Il problema è che siamo a fine questo gennaio. Questo non deve essere un alibi. Non deve essere un alibi, però va detto, insomma, per onestà, oggi l'Inter dietro aveva problemi di tutti i tipi, quindi c'era anche l'emergenza dietro. Grazie Enrico. Ci sentiamo domani, ci sentiamo, poi ci vediamo anche a Tiki-Taka domani, proprio facciamo la giornata insieme. Tombolone. Domani ci pensiamo io e Pardo a lanciare il volo del Gabbiano. Beh, Enrico, il Falco e il Gabbiano, sai, dalle 15:30. Il fatto che ci sia il Falco e il Gabbiano tutti i giorni alle 3:30 lo porterà, lo chiameremo continuamente, farà l'opinionista aggiunto. Ancora non sa, lui ha firmato un contratto, ma in realtà lo sfrutteremo biegamente il signor Ruggeri. Tanto sai che a noi piace molto il crossover, no? Aspetta che vi faccio sentire uno dei protagonisti di questa domenica. Ciao Enrico, Piniglia ha fatto un gol meraviglioso. Ciao Enrico, a domani. Sottolinei tu, nell'esperienza. Un gol in rovesciata, ma il gol più bello della stupendo. Sua carriera, questo? Grazie. No, c'è una domanda. No, ne ho altri più belli, simili a questi, però per l'importanza sicuramente per la nostra squadra è uno dei più belli. Hai visto il gol, stupendo, rovesciata tra l'altro al 94esimo. Chissà se lo fa tatuare anche questo. Chissà se lo fa tatuare, bella domanda. È il signor Pinia. Perché si può farsi tatuare la traversa. Si è fatto tatuare la traversa con Brasile. Rigore decisivo, rigore che segna la sua carriera. Quello di oggi, gol assolutamente meraviglioso. C'è il tweet di Pietro Grasso, C'è il tweet di Pietro Grasso. Direi che è davvero uno splendido momento per Palermo e per il un Palermo. Un cordiale saluto dal senatore Maurizio Gasparri. A proposito di Twitter, buonasera, senatore Grasso, il vicepresidente del Senato, ha appena fatto un tweet. Direi che è davvero uno splendido momento per Palermo e per il Palermo Calcio. Lei cosa risponde, Roma, Gasparri? Anche per la Roma. Rispondo una buona serata, sti cazzi, dico, mo basta, però. Bisogna fermare. Non le è piaciuto il pareggio, no. Io penso sia auspicabile parlarsi chiaro, a tal punto lo devo dire. Cosa? Guardi, adesso io vi faccio un bel tweet e voi faccio pure il retweet. Sì. Chiocciolina a seconda dei casi, tutti convocati weekend, hashtag mo basta. Sì, ma mo basta cosa? No, la Roma ha pareggiato. Vabbè, ma pensi che stavolta l'arbitro era addirittura sovietico? No, era russo, però russo appunto, è il cognome, appunto, senatore. Appunto, ormai sì. Si è stabilito un sistema sovietico imposto dalla Juventus, è impossibile da sradicare. Non è che semplicemente la Roma ha giocato male? Piena, se anche tu hai l'impressione. Allora, adesso facciamo un altro tweet. Chiocciolina a seconda dei casi, tutti convocati weekend, hashtag mo basta. Ci aggiungo pure un altro hashtag, sistema Juventus. Ma cosa c'entra sistema Juve? No, mi sembra che la Roma, ma ne stavamo parlando, lui è tifoso della Roma, no? Grande signor Gasparri. Si è infrenata, stia giocando male, Totti malissimo. Quindi, a proposito di Totti, durante la settimana ovviamente non si è allenato, essendo in lizza per la presidenza della Repubblica, certo, pure lanciato l'hashtag. Anche tutti presidente. Sì, ma lei è più preoccupato per la situazione politica del suo schieramento, insomma, un po' di polemiche, cioè, o per la Roma in questo momento? Ma io sono preoccupato che Totti ha preso 5 voti. Vorrei spendere due parole per Totti. Io l'ho votato, ci mancherebbe. Ho organizzato praticamente tutto io, ho fatto le quirinarie da Roma. Eppure molto bene, tanto è vero che dopo i 5 voti ricevuti al nostro capitano c'è stato un momento in cui sembrava dovesse diventare proprio lui presidente. Poi invece l'ha spuntata per un soffio Mattarella. 665 voti a 5. Ma adesso sapete che faccio? Sì. Allora adesso faccio un bel tweet. Sì, no, adesso per carità. Faccio un bel tweet. Arrivederci, senatore. Arrivederci. Tutti convocati. Queste sono le barzellette di chi voleva un po' tranquillizzare l'ambiente. Io dico solamente che noi senza errori forse saremmo stati a 36-37 punti e saremmo a combattere per qualcosa di diverso. Invece qui dobbiamo guardarci le spalle, così non va bene, perché comunque i punti fanno morale, oltre che fare classifica. Quindi la favoletta che si deve parlare della partita, del gioco, o comunque che ci siano compensazioni, questa mi posso permettere di dire che prendo vabbè, cazzata pazzesca, fare queste considerazioni. A me interessa solamente rimarcare l'ennesimo errore, poi tutta la politica che c'è dietro al sistema arbitrale la lascio agli altri. Voi fate il vostro mestiere e commentatela, non posso commentarla io faccio solamente rimarcare che è un errore assurdo quello che abbiamo subito ancora anche oggi, perché era evidente che era mezzo metro dentro l'area a Babacar, quindi questa è la verità. le grandi inchieste di tutti i convocati. A me l'avvocato Preziosi, perché è uno che ci va un po' intorno alla questione. Sì. Ha ragione, perché ragione, quest'anno tra l'altro ieri malissimo. Adesso mi perdoneranno gli amici del Genoa che hanno completamente ragione. L'altro giorno Luca Bizzarri mi ha scritto, l'ho anche detto, fischio finale della partita di Napoli, meno male che non sono in studio perché oggi farei un casino dopo Napoli-Genoa. E ieri c'era insomma Rizzoli che doveva essere una garanzia, no? Dal punto di vista arbitrale, anche se c'era stato nel passato famoso Genoa-Fiorentina, però insomma doveva essere una garanzia e si è fatto male. E poi ho detto, veramente quando gira storto. No, volevo dirti questa cosa perché è una breaking news che l'avvocato Angelo Pisani, che è l'avvocato di Maradona, ci ha mandato delle foto che ho appena twittato. Maradona dichiara, sono le foto con Rosio, la fidanzata Rosio Oliva, che è la sorella di Patrizio. Ah no, quello non c'è niente. Scusate, battuta veramente stupida. E dice Maradona: la nostra redazione è tornata solida dopo qualche normale frizione, come ce ne sono in tutte le coppe, in tutte le coppie del mondo. Quindi tutto bene. Maradona dice sto bene con Rosio, che Rosio che presenta maglia del Napoli, quella versione jeans. Sì. Non jeans e la maglietta. Tutto a posto come l'Inter Mancini. Tutto a posto come l'Inter Mancini, poi finirà la luna di miele come Mancini, con i tifosi dell'Inter. No, non fateci litigare. 800 24 00 24. Abbiamo lasciato indietro un po' gli ascoltatori. Allora cominciamo con Marco da Pescara. Marco, eccoci. 14:30. Grazie dell'ospitalità. Dico questo: Mancini e il suo staff non so quanto hanno preso per andare all'Inter. Sì, no, non poco, qualche soldino hanno preso. Due soldini, ecco, li hanno preso. Io se fossi il Mancini, che giudico peraltro un ottimo allenatore, da stasera darei le dimissioni e me ne andrei lasciando il contratto, perché dispone di giocatori che oggi come oggi credo che se continuano così vanno diretti in Serie B, non in Coppa dei Campioni. Sì, li ha scelti anche in parte lui questi giocatori, perché oggi c'erano Shaqiri, Podolski. Io non lo voglio sapere, Mazzarri, Toir, Moratti, a parte che Toir non può guidare una squadra stando in Indonesia e venendo ogni tanto. Sì, Pallotta guida la Roma da Boston non mi sembra la stia guidando malissimo. Però vede, la Roma c'ha uno staff. L'Inter no. Allora il problema sarà quello, magari. Allora il problema sarà magari quello. Anche l'Inter ha lo staff, cioè, l'Inter ha 20 persone. Non siamo a quei livelli. Poi sbagliano, perché è da un incidente, però è grave. Volevo cosa di chiedere oggi, una cosa: del cambio, volevo chiedere, è una domanda retorica. Juan Jesus è stato squalificato 3 giornate per la partita con la Juventus. Torna domenica. Scadono le 3 giornate, sono scadute oggi. 3 giornate a voglia che sono passate. Mi scusi, No, erano 3+1, perché lui in realtà ne ha prese 4, ne ha prese 3 con la prova TV per la gomitata a Chiellini, più una perché in quella partita era stato ammonito, era defilato. Ha saltato Genoa, Empoli, Torino e Sassuolo. E quindi tornerà Marco, poi vedremo se cambierà gli equilibri o no della difesa dell'Inter. Grazie Marco. Lorenzo da Modena. Lorenzo, buonasera. Eccoci. Senta, io sono tifoso interista da tanti anni, però ovviamente abitando a Sassuolo devo anche guardare un po' la squadra della mia città. Però mi dispiace continuare a sentire che sembra quasi che la partita l'abbia persa l'Inter, ma non per meriti di Sassuolo. Ma no, ma è fortissimo. Tenendo conto che quest'anno è, secondo me, una rivelazione. Ma perché non parliamo c'è dubbio di migliori giovani, ma non c'è l'unica dubbio. Squadra che ha giocatori italiani, a parte Versalico e altri. Punta tantissimo sui giovani, stadio di proprietà, c'è dietro un'organizzazione, secondo me, rispetto all'anno scorso, qualche errore l'hanno fatto, ma hanno poi preso la retta via, ipotizzo. E poi c'è un discorso di un allenatore che secondo me ha delle grandissime capacità. Domani sera a Tiki Taka, 23:10 Italia 1, Eusebio Di Francesco, ne parleremo con lui. L'elenco telefonico, a parte le battute, a parte che ne parliamo mille volte, a parte il piccolo particolare che qui, insomma, questa è fra l'altro anche Radio di Confindustria, vogliamo farci una battuta sopra. Però credo siamo intellettualmente onesti, se le cose andassero male, che lo diremmo, le cose vanno molto bene, lo diciamo, è chiaro, è il solito discorso, amico mio, le radio nazionali, le TV nazionali, è ovvio che debbano dedicare la stragrande maggioranza del loro tempo alle grandi squadre come Bacino Ludenza. Cioè, è chiaro che fa più notizia la sconfitta dell'Inter che la vittoria del Sassuolo, ma sul Sassuolo ogni bene, e aggiungo io, io, gliel'ho anche detto oggi, lo penso, Di Francesco, per come gioca a pallone, è destinato a una grande squadra, perché di allenatori bravi di provincia, di squadre provinciali che si salvano ce ne sono tanti, ma Di Francesco ha una visione del calcio, pur allenando una squadra teoricamente provinciale, molto alta, da grande allenatore. Infatti alcune sconfitte, il famoso 7-0 dell'anno scorso per esempio, se l'è beccato perché comunque, io me la ricordo la partita, ho commentato quella di oggi, perché comunque è una squadra che gioca sempre. Sì, poi in mezzo gli hanno rifatto la squadra, perché l'anno scorso, cioè, a gennaio con Valenzani sei giornate, ha comprato 12 giocatori. Secondo me la mossa vincente di oggi è che per la prima volta in settimana Squinzi non ha detto: quello con l'Inter è il mio derby, a me basterebbe vincere per una volta, che le altre volte gli era andata male. Questa settimana è stato prudente. Fra l'altro rassicuro zitto ulteriormente l'ascoltatore all'ascolto, perché bello l'ascoltatore all'ascolto, perché oggi lui ha detto: se mi vendono Zaza domani mi dimetto, e ho parlato anche con l'ufficio stampa del Sassuolo, perché completamente non c'è questa ipotesi, al punto che domani viene in trasmissione, non ci sono problemi. Dai, quindi, giocatore del Sassuolo. Ma è un progetto. Guarda, il Sassuolo, se il signor Quinzi decide che vuole continuare, che il gioco lo diverte, può tranquillamente farsi 10 anni di Serie A, 15 anni di Serie A, perché ha una struttura economica, uno stadio di proprietà che lo rendono potenzialmente, non ti dico il Parma degli anni 90, che poi sappiamo che in quel caso ha fatto una brutta fine, però voglio dire, i risultati sportivi erano eccezionali, ma assolutamente una squadra capace di potersela cavare senza problemi. Se Gianmarco Ferronato non mi incenerisce, facciamo Fabrizio da Messina. Fabrizio. Vai. Salve, buonasera, è piacere di conoscervi. Messinese, sei? Messinese? Messinese. Io volevo sottolineare la cattiveria dell'esonero da parte del signor Moratti di Mazzarri, un allenatore per la sua carriera parla da sola, e i miracoli Regina, Napoli vice campione d'Italia, Coppa Italia vinta. Io credo che sia stata un'ingiustizia, anche considerando la rosa che aveva a disposizione e anche la media punti che non era bassa. Al momento del suo esonero consideri che era. Ma lei ha detto apposta Moratti sì, o è stato un lapsus? L'ha licenziato Moratti, l'ha licenziato il signor Moratti. L'ha licenziato il signor Moratti, per il quale Mazzarri non c'erano i soldi per fare un mercato adeguato, e invece guarda caso col signor Mancini hanno speso 40 milioni per fare, però quelli non li ha messi Moratti. 40 milioni per modo di dire, e poi non li ha messi Moratti quelli, che poi i giocatori devono essere Presidente comunque riscattati. Va bene. Volevo sottolineare che nelle ultime tre partite il signor Mancini ha fatto un solo punto contro Empoli, Sassuolo e Torino. Sì, sì, e volevo sottolineare soprattutto che il suo City miliardario è stato buttato fuori in Champions League dal Napoli di Aronica, Dossena, Cannavaro. Secondo me Fabrizio da Messina è parente di Mazzarri, No, ma comunque ciao Fabrizio, grazie. Insomma, io ribadisco, sicuramente Mazzarri ha pagato oltre i suoi demeriti, su questo non ci sono dubbi. Per me Mancini rimane un buon allenatore, però è oggettivo che il problema non fosse Mazzarri. Su questo ormai proprio non ci sono dubbi. Ciao Pier. Ci sentiamo domani. Non so, te ne vai? Sì, se vuoi restare, resti ancora un quarto d'ora. Te ne vai, sì o no? Domani alle 2. Domani dopo il GR delle 14. Alle ore 14. Noi invece restiamo qui fino alle 19. Adesso parliamo anche del Milan. Adesso poi c'è questo signore qui? Sì, c'è quello lì. Ma è già in linea? No, non è ancora in linea. Possiamo per chiamare? C'è linea al traffico, guarda che sennò ci licenziano. Va bene, allora fatemi lanciare il traffico, mi piacerà, tanto poi me ne vado. Il traffico. È ora di finirla, è ora di smetterla con questa storia delle mie telefonate, basta! Chi è? Ah, Russo, ma io ti ho detto di espellere Pjanic, non Saponara! Tutti convocati! C'è più tempo, con 7 secondi, 8 secondi di anticipo, fischia Rocchi, Pioli esulta, la Lazio spanca San Siro, batte il Milan per la seconda volta in 3 giorni. Probabilmente abbiamo illuso un po' tutti, io andavo sempre coi piedi di piombo perché sapevo da dove venivamo e sapevo che non sarebbe stato così semplice. Poi, come dicevo prima, quando vedo altri allenatori che fanno così fatica, capisco che un allenatore deve dare tutto se stesso e cercare di far rendere al meglio questi giocatori. Io penso che però quando avremo la rosa al completo, recupereremo tutti gli infortunati e avrò anche dei cambi importanti in panchina, secondo me torneremo a fare bene, a giocare meglio. Sì, ho parlato col mister, c'è tanta voglia di far bene e soprattutto di dimostrare che comunque il Milan è una grandissima squadra e vogliamo partire subito da domenica per fare ottime prestazioni. Vedo, non so se puoi dire, incazzature dei miei giocatori, allora questo mi lascia ben sperare. Poi sentivo ieri le dichiarazioni di Rino Gattuso, lo ringrazio. Come tanti vedono che la squadra dà tutto per il proprio allenatore, e questo si vede, per cui questa è la cosa che mi lascia più sereno. Insomma, io so che daremo tutto anche domani, e domani dobbiamo vincere, basta. E i giocatori sono arrabbiati di questo momento, come lo sono io, come lo siamo tutti noi milanisti. Riassunto sonoro, montaggio di Paolo Corleone, musica scelta da Claudia Schiattone, riassunto sonoro della settimana del Milan. Saluto Massimo Oddo, ciao Massimo. Ciao Max. Buonasera a tutti. Hai sentito Inzaghi, la squadra è incazzata, sta dando tutto, adesso dobbiamo tornare alla vittoria. Parente nemmeno troppo lontano del quel voglio vedervi con la bava alla bocca di 7 giorni fa. Parole. Non è andata benissimo allora. Per ora parole. Come andrà stasera, Massimo? È inevitabile dire che il Milan ha bisogno di vincere sicuramente, e soprattutto questa partita è un momento molto delicato, e dai momenti delicati se ne esce con, oltre che con lavoro sicuramente, ma con le vittorie. Bisogna fare i punti e bisogna riprendere un po' di morale, un po' di cattiveria giusta che ci vuole in campo per raggiungere un obiettivo, ma ci vuole anche umiltà di essere consapevoli del fatto che è un momento difficile. Quando le cose quando ci sono questi momenti bisogna giocare con semplicità, facendo quello che si sa fare, e questa squadra credo che abbia i giocatori per fare almeno il semplice, insomma. Ma è sì, semplice, che poi io credo sia tradotto nel 4-4-2 che ci ha detto venerdì Serse Cosmi, è la puttana dei moduli, il 4-4-2 l'ha definito Serse Cosmi. Certamente è un modulo classico, antico, se vogliamo banale, però forse il Milan ha bisogno di non tante idee molto confuse, ma di poche idee chiare. Ha bisogno di semplicità in questo momento. Sì, però insomma, per come la penso io, il modulo lascia un po' il tempo che trova. Quello che conta è la mentalità dei ragazzi, scendere in campo con la cattiveria, mettendo in campo anche altre qualità che magari di cui si ha bisogno, che è l'agonismo, che è la corsa, bisogna correre più degli altri e capire che in questo momento ci vuole anche quello, non ci vogliono i tocchi di classe, non ci vogliono le giocate particolari, ma ci vuole concretezza. Destro, secondo te, è la risposta almeno a parte di questi problemi? Ma Destro è un grande giocatore, io per quello che lo conosco sono convinto che ha grandi potenzialità e grandi margini di miglioramento, è sicuramente una delle punte giovani più forti che ci sono, e l'impatto è importantissimo, soprattutto in uno stadio come quello di San Siro l'impatto è fondamentale. Se lui riesce a partire bene e avere subito la fiducia dell'ambiente San Siro sarà sicuramente importante. Una domanda al Massimo Oddo, allenatore: come si gioca per Destro? Cosa devi fare per innescarlo? Di cosa hai bisogno? Ma lui è bravo a fare tutto, veramente, lui è molto intelligente, sa muoversi negli spazi, sa attaccare la profondità, sa venire incontro, ma soprattutto sa fare gol. Bisogna servirlo, perché se lo servi, soprattutto in area micidiale. Sì, ma ce l'ha il Milan gli uomini che lo servono. Si parte dal 4-4-2, poi parleremo di Cerci, perché oggi sulla Gazzetta c'è questo retroscena di fine allenamento di venerdì. Qualcuno dice, secondo me anche giustamente, non è detto che questo Milan sia costruito per servire una prima punta vera, una prima punta come Destro. Innanzitutto la punta si serve da solo, nel senso che se abbiamo una punta statica che non fa movimento è difficile anche servirla. Lui non ha queste caratteristiche, ma ha caratteristiche anche diverse. Lui sa attaccare gli spazi e quindi credo che sia un valore aggiunto. Bisogna sempre ricordarsi che chi detta la giocata è il giocatore senza palla, non quello con la palla, quindi lui lo sa fare. Vedremo se lo faranno subito. Sì, dicevo di quello che c'è scritto oggi sulla Gazzetta dello Sport, spaccato di quello che oggi è la situazione del Milan. Venerdì Cerci, fine allenamento, viene a sapere che sarebbe finito in panchina contro il Parma, si arrabbia molto, ribaltone, questa sera meno di ulteriori cambi, giocherà titolare. Tu hai frequentato Milanello, cosa leggi? I buonisti dicono, ecco, si è impegnato, ha capito che doveva metterci qualcosa in più e nelle 24 ore successive ha convinto Inzaghi. Quelli un po' maligni dicono, Inzaghi non è ancora un allenatore fatto e finito, queste cose al Milan di solito non succedevano. Ma Inzaghi non Inzaghi, io in questo caso mi metto nei panni di un allenatore, anch'io nel mio piccolo. Provo e riprovo al venerdì, al giovedì, fino a che trovo una soluzione che io reputo vincente, fino a che un giocatore può anche convincermi, anche se penso che magari giovedì o venerdì non possa giocare, poi magari posso cambiare idea, quindi sono cose del tutto normali. Fai parte di quelli che dei buonisti, fai parte? No, ma perché il calcio è così, l'allenatore non ha sempre idee chiare, soprattutto al giovedì o al venerdì, sta anche ai giocatori, magari a volte si fa anche apposta, no? A non dare la casacca per vedere un certo tipo di reazione, e quindi la casacca è titolare, dico. E quindi può essere anche un metodo per tirare fuori qualcosa in più da parte dei calciatori. Ti faccio un'ultima domanda, sempre il vostro amico Gattuso, quello che ha nominato prima anche Pippo Inzaghi. Tra le mille cose che ha detto questa settimana, ha detto: il problema del Milan è che ci sono più teste a comandare. Ai miei tempi ne vedevamo sempre solo una, e invece la situazione che c'è adesso turba tutti, giocatore, ambiente, non fa bene. Hai l'impressione che sia così? Assolutamente sì. Siamo alla radice del problema. Dal tempo dei tempi, ma non solo in fatto calcistico, le cose sono sempre andate meglio quando al comando c'è sempre stato uno. E quindi credo che sia una cosa fondamentale. In questo momento c'è un allenatore in panchina che forse giustamente, normalmente, umanamente ha perso un pochino di potere, non quello che aveva all'inizio. Io credo che la strada giusta da intraprendere sia, per prima cosa, ridare il giusto potere a chi deve comandare, e quindi investirlo di autorità, quello che aveva all'inizio. Sì, c'è da rimettere un po' di ordine in casa. Grazie Massimo. Ciao Massimo, grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie Massimo Oddo. Pensa che ci si scrive di smetterla di difendere Mancini. Chi è? Oh. Ma non posso stare neanche in pace qua su. Non si riesce a stare. Avvocato Prisco. No, ma no, insomma, le sedute. Oggi noi pensiamo molto agli interisti. Pensate, sto soffrendo anche qua in paradiso, ma mi è andata di lusso. Sì. Immaginate se mi trovavo all'inferno, milanisti da tutte sì, le parti. Diavoli, ma che aria tira lì tra gli interisti che ci sono? Purtroppo c'è tanti. Una banda di angeli juventini e un branco di pennuti milanisti, cioè tifosi di squadre minori che da un paio d'ore mi hanno fatto battutine del tipo cucù la coppa non c'è più. Sì. E altre cose di questo tipo. Sì, coppa è credo un concetto che in questo momento è meglio dimenticare. Ma senta, cosa c'ha l'Inter? Ma la sindrome dell'uccello padulo, quello che vola sempre alla sì, no, abbiamo capito. No, come spiega anche oggi la sconfitta? Guardi, guardavo la partita qui con gli altri angeli, a un certo punto mostrano il replay. Sì. E allora? Non era il replay, era un'azione di gioco di Ranocchia. Sì, allora è colpa di Ranocchia. No, ma visto che non riuscite più nemmeno a fare i cambi. Doveva entrare Brozovic, doveva uscire Doncor, è uscito Vidic, non si sono capiti. Ma noi dobbiamo fare un monumento al collaboratore. Sì. Pensi che Mancini voleva togliere Andanovic? Certo. Però torna Cassano. Sì. senta, se volevo vedere un film di Dario Argento ci andavo da solo. Sì, già da non è contento. No. Vabbè, comunque Berlusconi non sta meglio, non è molto guardi, più felice. Se potessi incontrarlo oggi gli direi: cavaliere, stiamo andando a puttane. No, cosa risponderebbe? No, cosa risponderebbe? Aspettatemi, vengo anch'io. Tutti convocati. C'è chi dice, spiegatelo, che Mazzarri non portava più i tifosi allo stadio, invece con Mancini c'è stata la svolta. C'è stata l'invasione di San Siro, tutte le domeniche, tutto esaurito. Ma non vi annoierò con i numeri. Giovanni da Andria. Giovanni. Questa tendenza alla difesa di Mancini è qualunque cosa. Eccoci. Per la trasmissione. Senta, volevo fare due domande. Sì. Sono tifoso del Milan, ma può arrivare anche Osvaldo? E un'altra domanda. No, Osvaldo no. Osvaldo no. Poi? Ah. Osvaldo no, perché domanda. L'Inter, pur di non mandarlo al Milan, ha fatto di tutto, e a quel punto Galliani, secondo me, destro. Anche giustamente, ha preso destro, ha fatto un investimento anche per il futuro. Prego, Giovanni. Un'altra domanda. Senta, la Roma sta avendo tanti aiuti arbitrari. Credo che Garcia è diventato il clone di Mazzarri. Garciarri è meglio chiamarlo, perché quando va tutto bene... si lamenta quando è a loro, quando è a favore della Roma non dice niente, quando è agli altri si lamenta. Volevo dire, secondo voi tra Napoli e Roma come organico chi è più forte, chi può arrivare secondo? Credo organico pieno la Roma probabilmente, sì. poi dopo ci sono gli infortuni, c'è tutto il resto, e quindi a questo punto mi sembra che la corsa per il terzo posto sia assolutamente aperta. Sì, aperta. Io la Roma la vedo male, continuo a vederla male, ci sono un sacco di problemi, c'è anche parecchia sfiga, lo sottolineavamo prima, molti infortunati. È chiaro che la Roma è un organico più attrezzato, più profondo, più talentuoso, più tutto rispetto a Napoli, che ha un grande attacco ma non è di quel livello. Però la Roma in questo momento la vedo davvero, c'è qualcosa che non va dentro lì, piantata. La vedo completamente piantata, e forse magari qualche problema anche di rapporto, no? Sì. In quello spogliatoio, e poi forse anche qualche problema sottovalutato dal 2 gennaio ad oggi, perché siamo nel pieno del mercato, ci sono ancora qualcosa più di 24 ore per correggere eventuali errori, perché il mercato chiude domani. Il problema non è Cassano o Balotelli o tutti e due assieme, così facciamo un bel mix. Il problema è che il mercato di gennaio non è un mercato così semplice, e probabilmente è difficile anche trovare giocatori che cambiano la squadra, quindi a volte è meglio prendere qualcuno più giovane, che magari non può essere utile per l'immediato, ma forse fra sei mesi sarà il titolare dell'Inter. Questo Mancini ieri, prima del diluvio, quando gli hanno detto: ma è vero che prendete Cassano? Sì. Aspetta che lo chiediamo ad Alfredo Pedulla. Ciao Alfredo. Ciao Alfredo. Ciao, buonasera a voi. Sport, grazie. Italia, alfredopedulla.com, cercatelo che lo trovate. Io ho l'impressione che dopo oggi il tema Cassano sia leggermente scivolato nelle priorità dei dirigenti dell'Inter. Sì, tu hai l'impressione giusta, credo che indipendentemente da oggi fosse abbastanza in testa, perché poi sulle parole collegate al mercato, sinceramente io alle parole credo poco, contano molti fatti. Facciamo anche la conta della situazione del reparto offensivo dell'Inter, Icardi è un po' in rotta di collisione, non soltanto con l'ambiente ma con l'allenatore che non lo schiera titolare e lo fa salire sul treno in corsa. È giusto quello che dice Ausilio, puntiamo su Puskas e Bonazzoli, ma tu hai anche un'Europa League da onorare in qualche modo e potrebbe essere il salvagente della stagione. Palacio è vulnerabile dal punto di vista fisico, io credo che sia una necessità, ma credo anche che l'Inter non farà soltanto un'operazione davanti, ma cercherà di fare un'operazione in difesa e anche un'operazione a centrocampo. Anche perché Mancini ieri, al di là delle battute su Cassano, Balotelli, il mix e tutto, ha detto chiaramente che le squadre sono come le case, si costruiscono dalle fondamenta. Mi pare anche di aver capito che non apprezzi trentenni, parametri zero o cose simili. Ma queste infatti sarebbero due eccezioni, io mi riferisco anche all'Edesma, perché l'Edesma è una storia della scorsa settimana. Allora tu puoi prendere qualcuno che ti dia una mano per 5 mesi e poi il contratto lo prepari con opzioni, clausole, situazioni, bonus che possano diventare anche un rinnovo e un prolungamento se tu dimostri in questi 5 mesi. Quindi non sarebbe un discorso in contrapposizione rispetto a quello che l'Inter sta preparando per il futuro, sarebbe un discorso di trovare qualcuno che ti dia una mano d'aiuto. Il problema è un po' diverso per quanto riguarda la difesa, perché io sono convinto che l'Inter già stasera e forse anche domattina proverà ancora a prendere Vida, che al momento, anzi da qualche giorno, è diventata la priorità. Se l'Inter avesse voluto chiudere Rodolfo eravamo quasi vicini ai bolli, e non ti escludo che possa tornarci, ma non l'ha chiuso 2 o 3 giorni fa quando avrebbe potuto. Sì, qualche motivo ci sarà. Esatto, ci stanno 2 o 3 soluzioni di ripiego, con tutto il rispetto per i vari Diakité, Benawan, tutti quelli che consideriamo come possibili, perché qualcuno lo devi prendere. Si parla di Santon, ma sinceramente io penso che Newcastle ha dato in prestito secco senza delle garanzie. Stiamo parlando di club ricchi che prima di cedere qualcuno a 24, 30, 32 ore dalla fine del mercato vorrebbe avere delle garanzie economiche. Senti Alfredo, ma la Roma non fa proprio più niente? Perché a me sembra in grande difficoltà. No, hai ragione, ti ho ascoltato, sono d'accordo con te. Tra l'altro questa storia di fare tutti velocisti in attacco significa prendere una posizione abbastanza complicata e delicata. Perché non puoi pensare di giocare soltanto in velocità. Ormai destro hai fatto quello che hai fatto e non puoi più recuperarlo. C'è Kirikesh molto ben avviato, perché c'è il Barbo che manca soltanto l'annuncio. Il Barbo è un'operazione completata, è un'operazione da visite mediche, è un'operazione che per il Cagliari inizialmente prevedeva un obbligo di riscatto, poi hanno concesso il rinnovo di diritto di riscatto, scusami, con un prestito oneroso dai 2 milioni e 8 ai 3 milioni. In Barbo domani sarà a Roma per le visite, quindi lo possiamo aggiungere. È una Roma, fate voi i calcoli, di velocisti, di attaccanti che partono da destra e da sinistra. Sì, la mandiamo alle Olimpiadi, poi ci sarebbe anche da trattare il pallone. vincerebbero loro, ma senza pallone. Sì, e possono quindi fare la 4%. Sono d'accordo con te, mentre Kirikesh è una storia che si sbloccherà tra stasera e domattina, perché c'è la volontà della Roma. Potrebbero anche prendere un centrocampista, semplicemente perché in mezzo sono contati dopo il nuovo infortunio che ha avuto Strootman, quindi Mavuba, che conosce molto bene, che Garcia conosce molto bene, che è scadenza di contratto e che la Roma potrebbe prendere a giugno. In questi casi si può anche anticipare, ma domani sarà il giorno per cercare di anticipare non soltanto Mavuba ma anche Munoz, quindi mi aspetto molte, molte sorprese e molte situazioni sul filo. Sì, ci divertiamo domani, nel senso che noi ci siamo abituati al mercato che si chiude poi nelle ultime ore. In realtà questo gennaio ci ha regalato già i colpi all'inizio, Cerci strappato dal Milan all'Inter, poi la risposta dell'Inter con Shaqiri e Podolski, poi Gabbiadini addirittura preso a metà dicembre dal Napoli. C'è ancora qualcosa da raccontare, anche se Preziosi ieri si è vestito da inviato d'assalto del calciomercato e credo vi abbia rovinato il palinsesto, no? Raccontando il triangolo. Giovanni, lui può fare quello che vuole, io non lo ritengo giusto per una questione di correttezza, non nei nostri riguardi, ma nei riguardi dei diretti interessati. Perché se io sono la Juve e sto trattando e sto aspettando ancora Osvaldo, non è giusto che un altro parli delle mie cose, io la vedo così. Tu puoi parlare di Borriello che l'hai preso, puoi parlare di Antonelli che è andato al Milan ed era un'operazione scollegata da Armero, come abbiamo detto nei giorni scorsi, perché l'arrivo di Laxalt ha messo il Genoa nelle condizioni di prendere un centrocampista con spiccate doti da fascia sinistra. Però secondo me non puoi dire Matri va alla Juve quando Matri ancora alla Juve non è andato. Io sono per le cose giuste, simpatiche, abbastanza impostate, senza sgarrare, soprattutto se parli di un altro. Quindi ci stai dicendo che Matri probabilmente resterà dov'è, credo, no? No, se la Juve, allora ci sono 3 strade, la prima portava Zaza ed è chiusa, l'abbiamo sentita anche prima. Diamo un 5%, la più importante per la Juve è Osvaldo. Matri ha svolto delle visite mediche per la Juve per capire le sue condizioni, visto che è infortunato. No, io non ti escludo che il fatto che non arrivi Matri non mette in preventivo il fatto che vada Osvaldo al 100%. Ora è ancora Osvaldo la priorità, cioè la Juve cercherà di parlare col Southampton. Poi tra l'altro è una cosa un po' politica, perché l'Inter ha dato il cartellino al Southampton dopo le polemiche Vucinic-Guarin, vorrebbe che fosse il Southampton a gestire e a prendere eventualmente un indennizzo, no? Io ritengo che in generale dire Matri va alla Juve e magari alla fine ci andrà, a due giorni dalla fine del mercato, parlando di altri, non mi sembra sinceramente sì, se sia una scortesia, esatto, tra dirigenti. Bravissimo nella sintesi. No, la non con i giornalisti, è... No, il palinsesto noi lo riempiamo lo stesso. No, anche perché il mercato lo fanno sui social anche loro, e quindi noi dobbiamo cercare di anticipare, e spesso loro ispirano noi. Però che un presidente dica quello va lì e l'altro va lì e Tizio va qui, quando si tratta anche di altre società, non mi sembra il massimo del garbo. Ma la Fiorentina invece i soldi di Cuadrado li reinveste o non c'è tempo, se ne riparla a giugno? No, la Fiorentina chiude Salah, e se dovesse avere un'occasione per la fascia, dovesse uscire Richards, che comunque è un'opzione per l'Inter da ultimo minuto, potrebbe prendere un difensore di fascia. Al momento la Fiorentina ha deciso di restare così, cioè piace Baselli ma costa, attenzione a Baselli, perché Baselli nelle ultime ore di mercato, dopo la vittoria di oggi dell'Atalanta che ha dato un po' più di tranquillità all'Atalanta, potrebbe essere una situazione per chi Milan in testa magari garantisce un obbligo di riscatto. La Fiorentina può cercare un esterno per sostituire eventualmente Richards, o un'occasione, viene accostato Darmian, ma io credo che il Toro su Darmian voglia decidere con calma a giugno a chi darlo. Alfredo, non ho capito bene un'ultima cosa, non ho capito bene dunque Cassano se all'Inter ci va oppure no, e se non va all'Inter dove lo vedresti? No, guarda, io sono 4 giorni, anche 5, che lo sto mandando all'Inter e mi son fermato quando ho detto lunedì, giorno decisivo, perché ci sarà un incontro. Questo incontro magari lo confermeranno tra qualche ora. Io vedo delle percentuali importanti. Cassano ha aspettato l'Inter, ha detto no all'estero, ai soldi di Dubai, al richiamo della terra natia Bari, alla possibilità di andare da altre parti. Cassano aspetta l'Inter. Sì, sarebbe una scortesia a questo punto di lì. Ci abbiamo ripensato. No, ma poi le scortesie si possono anche fare, perché comunque torniamo all'inizio del collegamento, quando voi giustamente mi avete detto Mancini e il virgolettato fa parte del gioco, perché Mancini era stato avvertito anche dell'ipotesi Ledesma, ed è chiaro che Mancini non voglia, è normale che non voglia rispondere a domande così delicate. Vediamo, tanto domani alle 23 finisce. Cassano, fin quando avrà una speranza di tornare in nerazzurro, anche per 5 mesi, con un contratto da opzione, clausole, bonus e tutto quello che vogliamo, aspetterà l'Inter. Quindi io tengo ancora molto aperta questa porta. E poi finalmente andrà in vacanza con tutti gli altri. No, in vacanza, ma si dorme un po' di più sicuramente la notte. Sì. Si recupera anche un po' di voce, esatto, caro Alfredo. Sì. La sto perdendo e sono preoccupato per domani. Perché domani è in onda praticamente per 23 domani ore su 23. Esatto, no? Sacco di caravelle. Ciao Alfredo, grazie. È sempre un piacere, buona serata a voi. A domani, ciao Alfredo Pedullà. Quindi Cassano lo mandiamo all'Inter, e se non lo vogliono Alfredo Pedullà in macchina lo prende e lo porta direttamente da Piano Gentile. Traffico, se non trova traffico, Se non trova traffico. Buonasera, il nostro nuovo presidente della Repubblica Mattarella, tifoso interista, è stato salutato quest'oggi a Reggio Emilia in maniera coesa e molto positiva dal Sassuolo, con 3 colpi di cannone, che noi sull'altra sponda del Naviglio chiamiamo pappine. Tutti convocati. Game, set and match. Follow me, continue. 6-4, 6-4. Oggi si sono chiusi gli Australian Open, quelli, carissimo Carlo, dell'orgoglio italiano. L'hai sentito, grande, no? Sì, Fognini ieri, prima coppia azzurra a vincere un torneo di doppio dello slam, 56 anni dopo, Pietrangeli e Sirola. Intanto saluto Adriano Panatta. Ciao Adriano. Ciao Adriano. Ciao, buonasera. Che questi Australian li ha commentati tutti per Eurosport. Oggi è finito anche il torneo maschile. Ha vinto Djokovic in 4 set su Murray, 7-6, 6-7, 6-3, 6-0. Diciamo che ci siamo divertiti, Adriano, no? Sì, è stato un bel torneo. Beh, per noi italiani è stata una bella vittoria, è stata una bella soddisfazione nel doppio, anche se io ho detto che avrei preferito commentare Fognini o anche Bolelli già dalle semifinali del singolare. Comunque il doppio è sempre una bella vittoria, ma soprattutto in prospettiva della Coppa Davis. Il doppio è molto importante in Coppa Davis, certe volte risulta decisivo nella vittoria o nella sconfitta, per cui fa ben sperare questa nuova sì, coppia. Facciamo nuova bene coppia. A festeggiare. È già parecchio che gioca insieme. Facciamo bene a festeggiare, ma piano con le illusioni, prima di dire è tornato il grande tennis italiano. È pur sempre doppio, questo è il significato. Beh, però abbiamo visto anche Seppi fare una grande impresa, no? Lo sappiamo, sì. No, Seppi ha battuto Federer. Cioè, questo è un torneo che inizia l'anno, no? Inizia l'anno con lo Slam, con un major, per cui primo torneo, molti giocatori non sono ancora in piena forma, si è vista qualche carenza. Nadal che ancora è lontano dalla forma migliore, Federer così, anche i due finalisti di oggi, per carità, sono grandi campioni, però insomma qualche piccola sbavatura c'era, ecco. Complessivamente, al di là del doppio, prima avete citato Seppi con Federer, anche Camilla Giorgi credo sia arrivata molto vicina a battere una delle Williams, cioè sono state due belle settimane per noi italiani e non solo per quel risultato di doppio, il che ci fa sperare, ma lo facciamo sempre, in un'annata che sia l'annata un'annata buona, se il vino si giudica azzurra, dal primo assaggio, Adriano, noi possiamo sperare che l'annata 2015 sia una buona annata. Guarda, io spero molto in Fognini. Fognini non ha giocato bene negli ultimi mesi, sia la fine dell'anno precedente, e anche lì alla sua Open nel singolare è andato male, diciamo la verità. Poi ha vinto il doppio e siamo contenti. Io spero che lui quest'anno possa veramente arrivare in fondo a qualche torneo molto grosso, perché Fabio è un giocatore che tecnicamente vale i primi cinque, ed è un peccato che per qualche così carenza caratteriale invece non raggiunga questi risultati. Questa è la testa un po' così. Quella testa un po' così, quindi del Genova. Mi è piaciuto ieri a un certo punto su una chiamata sbagliata, non dubbia, sbagliata dell'arbitro, che Fabio ha cominciato a protestare. A un certo punto Simone Bolelli si è sentito chiaramente, Adriano gli ha detto: Fabio, adesso falla finita. E insomma, con Fabio non si sa mai dove si va a finire, quindi ha fatto certamente bene a intervenire. Oggi abbiamo visto quella finale Djokovic-Murray, 4-7, abbiamo detto 7-6, 6-7, 6-3, 6-0. Mi sembra complessivamente che abbia vinto il più forte. Beh, Djokovic è più giocatore. Djokovic oggi hanno giocato due match. Il primo match che hanno giocato era alla pari, perché hanno giocato tre ore, hanno vinto un tie break per uno e veramente era molto equilibrato. Anche se Djokovic non mi è piaciuto, che ha fatto un po' di pantomima su un ipotetica distorsione della caviglia, insomma, ci ha provato un pochettino, ha fatto un po' di messa in scena, però vedi al terzo set, quando sembrava che Murray dovesse prendere il largo, a un certo punto Murray ha perso 9 giochi di seguito, che a quel livello lì non si fa, per cui da 3 pari ha perso 6-3, 6-0, è crollato completamente, ma credo che sia crollato più che fisicamente di nervi. E ha vinto probabilmente il più forte. Abbiamo visto anche in finale lo sprint di Djokovic contro Wawrinka, ma anche lì partita molto equilibrata, poi questo ha dato lo strappo, probabilmente era meglio preparato anche fisicamente rispetto agli altri. Beh, lui fisicamente è tirato in una maniera pazzesca, perché cura soprattutto l'alimentazione, lui da quando non mangia più il glutine, diciamo, no? Ha avuto un miglioramento pazzesco, perché era intollerante, l'hanno scoperto, ma è uno che mi diceva Crepa, che faceva con me le telecronache, che lui addirittura tutte le cose che mangia le pesa perfettamente al grammo, per cui c'ha tutta una dieta particolare, e devo dire che si vede, perché fisicamente è nettamente il più forte del circuito. Certamente, grazie Adriano. Ciao Adriano, grazie. Prego, ciao. Grazie ad Adriano Panatta. Beh, penso che sia un bel segnale che l'arrivo di Destro, di Bocchetti, e se ci sarà qualche ulteriore innesto, è arrivato Cerci, insomma tutti ce lo dimentichiamo, ma anche lui è un acquisto di gennaio. Questo penso che faccia capire che la società ha voglia di far bene, se non avrebbe messo questi innesti, che mi avvicina, sono giocatori che avevo chiesto io, per cui sono molto felice, ringrazio il Presidente. Questo Inzaghi, poi fiducioso, questa coeso. Sera si gioca tanto Inzaghi, poco coeso, tanto coeso. Cioè, se non dovesse battere il Parma, vabbè, allora domani torniamo a parlare di... Sì, è una buccia di banana però il Parma, nel senso che è una partita talmente scontata da prevedere un esito solo, poi, possibilmente che... senza sofferenza. Ma poi sai, il Milan gioca con un sacco di pressione addosso, quindi se riesce a sbloccarla subito è meglio. Se invece la partita va per le lunghe, nel senso che non riesce a sbloccarla subito, ogni minuto che passa diventerà sempre più difficile, malumore del pubblico e magari i fischi e... cioè c'è tanta pressione addosso a questa squadra, Sì, quindi... c'è tanta pressione, qualche amico da casa si chiede se il Parma sia ancora una realtà che può stare nel nostro campionato o se non c'è il rischio di vivere un girone di ritorno virtuale. Beh, rischio c'è. Galloppa l'altro giorno ha detto o ci danno i nostri quattrini o tutti insieme prenderemo delle iniziative. È una situazione enormemente difficile da gestire, i giocatori sono professionisti, è inutile stare a fare della demagogia, quindi sì, l'altra sera bene con arriva, la Juve, ma c'erano ancora le motivazioni, c'era una Coppa Italia potenzialmente da giocare. Sì, c'erano ancora le motivazioni eccetera, però sono, ripeto, questa sera la pressione c'era addosso tutta al Milan. È chiaro che il Parma, se prende un gol nei primi 10 minuti, potrebbe anche sciogliersi. Questo è l'altro rovescio della medaglia in situazioni così, cioè se riesci a reggere magari la porti il tempo lavora a tuo favore, se no diventa dura. Se no, non è una serata piacevole. Abbiamo finito. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleone, Gianmarco Ferronato in regia, il nostro Andro Mercù abbiamo sentito con Gasparri e Peppino Prisco. Carlo, domani dopo GR delle 14, dalle 14 alle 15:30, poi arriva il nostro colpo del mercato, cioè Enrico Ruggeri. Il falco e il gabbiano. Noi ci risentiamo domenica prossima a partire dalle 17. Ciao. Tutti convocati, weekend. Voglio dire una cosa bella. Ci hanno mai mandato a che paese sapesse quanta gente che c'è sta. Sono stonato.